politica, della bomba atomica, tutte belle chiacchiere ma inutili per me. Mille stelle brillano, mille voci cantano, non parlare, baciami stringendomi sul cuore. L'amore non vuol chiacchiere, ma baci, baci, baci, mi sento il cuore fremere, ma tu vuoi chiacchierare. Non serve la grammatica per essere felici, parlare bene è inutile se non mi sai baciare. Con un bacio mamma conquistò papà, per quel bacio il babbo si sposò mamma. Da che mondo è mondo è questo che si fa? Non resisto più, baciami, baciami anche tu. L'amore non vuol chiacchiere, ma baci, baci, baci. Le bocche a cosa servono? Soltanto per baciare. Le bocche a cosa servono?